Io in questo momento non sono lì, penso però che organizzerete un collegamento con qualcuno che è lì. E io non sono a presidio in questo momento. Pronto? Sì, sì, no, ti ascoltiamo. No, sapevamo che non eri lì, sì. Soltanto che ci piaceva parlare sì. con te. Certo. Della situazione di Torino. Assolutamente. Certo. E okay. Quindi non ho sentito i ragionamenti che avete. Certo, non ho sentito fino adesso i ragionamenti che avete fatto perché ero in giro, non potevo. Abbiamo ascoltare. Fatto vari collegamenti tra Firenze, Bologna, parlato del razzismo strisciante, del razzismo istituzionale, del certo. fascismo di Stato, della condizione dei migranti, del fatto che insomma adesso tutti si stracciano le vesti, ma in realtà i CIE e i CPT li ha creati la sinistra in Italia, insomma discorsi che mastichiamo molto spesso anche insieme, per cui ti volevamo chiedere di Torino appunto perché certo. dopo il pogrom molti si sono affrettati a dire che comunque Torino è una città antifascista, che comunque Torino è una città operaia, però tutto quello è successo a Torino, quindi qualcosa che non va c'è anche lì. Certo, allora provo a dire 3-4 cose, spero velocissimamente, poi se volete ne approfondiamo anche soltanto qualcuno. Allora, sapete quello che è successo a Torino, lo sanno tutti, durante una manifestazione assolutamente allargata e popolare, perché di questo si tratta, c'è dentro, c'è della gente, quasi tutta gente normale, una parte di questa manifestazione è entrata neanche in un campo, era abbandonato in cui vivevano, insomma, pochissimi tra l'altro, rom e non solo, e ha dato fuoco a delle baracche, ha tentato di uccidere coscientemente donne, bambini, uomini, qualsiasi sia l'età, cambia anche relativamente. E ha tentato di ucciderli basandosi su una finta accusa di uno stupro. Questa cosa qui ci ricorda veramente le persecuzioni antiebraiche del Medioevo, no? Le finte accuse, gli omicidi rituali, i bambini fatti santi, no? Dalla Chiesa Cattolica perché si pensava fossero stati uccisi dagli ebrei, eccetera, eccetera, eccetera. Però dovremmo contestualizzare un po' meglio, no? La situazione. Secondo me il centro di questo ragionamento forse può essere anche il discorso sul fascismo, antifascismo e tutto il resto. La situazione delle Vallette è una situazione particolare, le Vallette è il quartiere, e i compagni in giro per il mondo conoscono questo quartiere più che altro perché deve c'è il carcere, e quindi tutti sanno che alle Vallette c'è il carcere. Quello è il quartiere che sta accanto al carcere ed è la periferia di Torino, poi Torino è una città piccola, perché comunque dal centro delle Vallette al centro della città ci mettiamo mezz'ora, non è un posto enormemente distante da un punto di vista geografico come possono essere le periferie romane, però ha tutte le dinamiche assolutamente delle periferie ed è un quartiere dove lotte e conquiste, no? E solidarietà ce ne sarà tante, tantissime, no? 30 anni fa, 40 anni fa quando le lotte c'erano. E quindi il tessuto sociale che c'è adesso in quel quartiere, come in tutte le periferie, e non solo in periferia, a Torino, ma poi in tutte le città, è quello del deserto dato dall'assenza della memoria delle lotte, non l'assenza della memoria antifascista per esempio, l'assenza della memoria delle lotte, cioè del fatto che risolvere i problemi vuol dire anche mettersi assieme e capire che la colpa delle nostre disgrazie non è quello che è più povero di noi e così del genere. Rispetto ad altri quartieri di Torino, le Vallette ha avuto in questi anni qui un rapporto problematico con il campo vicino a casa loro, abbastanza relativo, nel senso che io conosco bene, le Vallette le conosco molto poco, ma altri quartieri in cui c'erano dei campi li conosco molto meglio, e l'insieme di problemi di convivenza che ci sono spessissimi in questi casi sono molto più pesanti altrove che lì. Lì si può anche dire che è uno dei posti dove come i motivi di screzio ce n'erano di meno. L'odio contro i rom, anche se poi in quel campo non erano tutti rom, non è stato portato dunque da una serie piccoli di episodi gigantiti, è stato solamente in parte dato così, perché c'è stata un'operazione di soffiare sul fuoco molto molto forte, non da parte dei fascisti, che ufficialmente in quel quartiere non esistono, cioè esistono, poi ne parleremo, ma ufficialmente non ci sono, ma da parte del mondo istituzionale, perché pur senza dei discorsi apertamente razzisti, sono almeno 4-5 anni che ogni 6 mesi c'è una fiaccolata contro i vicini di casa rom, o comunque contro la gente che sta al campo, che è servita a veicolare tutta una serie di tensioni che ci sono in quel quartiere, perché è un quartiere di case popolari che sono tenute mica tanto bene, un quartiere insomma di tutte le difficoltà delle periferie, come vi dicevo, e c'è qualcuno che ha pensato bene già da molti anni di veicolare ogni cosa in senso anti-rom. quel qualcuno, tra l'altro, sono anche i capi della circoscrizione, quindi parte anche la sinistra. Voi lo sapete che alla manifestazione, che poi è la fiaccolata, che poi è diventata un pogrom fallito sostanzialmente, c'era anche la rappresentante del centro-sinistra, che è il capo della circoscrizione, che era presidentessa del PD provinciale o regionale, non mi ricordo più, che dice: vado lì perché il mio quartiere ci devo essere. Però la dinamica complessiva di indichiamo come responsabili di qualsiasi cosa quelli là, e poi quelli lì siano i tossici, i rom, i neri, e poi ognuno, ogni quartiere al suo, è una cosa che è stata portata in quel quartiere, trovando poi un terreno fertilissimo, veramente da dei pezzi di circoscrizione. E poi questa cosa si è sfuggita di mano, è il passo successivo, e che poi che questa cosa abbia causato queste conseguenze devastanti è un'altra cosa che dobbiamo vedere da indice della situazione emotiva e sociale che si vive nella nostra città. Questa è la prima cosa. Quindi il reticolo organizzativo di questo pogrom, sia nella preparazione psicologica che in quella poi materiale, è stato in parte anche assolutamente istituzionale, perché quel campo lì era uno di quelli meno sott'occhio dal punto di vista di convivenza. Vi faccio un esempio: in altri campi succede spesso che c'è della gente che brucia i cavi di rame, no? Per togliergli la guaina e rivendersela, e i fiumi danno fastidio ai vicini di casa italiani, normale che gli dia fastidio. E quindi sono le proteste. In questo caso quel tipo di proteste non c'erano, e i furti nel quartiere niente può dimostrare fossero dati da, anzi molto difficile che fossero fatti dai rom di quel campo lì a 100 metri. Quindi il primo dato è questo qui: non si tratta soltanto di fascisti, si tratta di un meccanismo che è tutto interno alle istituzioni e al modo in cui il nostro mondo si regge, perché attribuire, no, tutte le nostre disgrazie socialmente intese a chi è più povero di noi o diverso da noi o ci dà fastidio per qualsiasi cosa è uno dei meccanismi normali della società, è costitutivo, non è un accidente. Adesso quelli che si piangono del razzismo e tutto il resto, soprattutto se sono giornalisti o politici, dicono le cretinate, perché il loro ruolo è quello, è istigarci in quel senso lì, e non possono dire il contrario, perché lo fanno per mestiere, ma perché da sempre il sospetto verso l'altro serve per tenere in piedi il mondo, perché se ognuno di noi ogni volta che c'è una sfida, una disgrazia nel senso sociale, accusa i propri padroni, il mondo non si reggerebbe semplicemente. Quindi è un meccanismo talmente antico che ce l'abbiamo dentro il cuore, dentro l'animo. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento, ed è interessante, che qui in città, ma penso anche a Roma, esiste un reticolo fittissimo di comitati, gruppi politici e basi di partiti che fanno questo lavoro preventivo, e non sono tutti fascisti e non sono tutti leghisti, alcuni sono assolutamente apolitici e alcuni fanno un discorso che non è un discorso razzista. E io penso, tornando vicino a casa mia, dopo un omicidio particolarmente brutto che c'è stato in strada, ma che niente aveva di fatto con storie di immigrazione o di criminalità di strada, c'è un susseguirsi di manifestazioni contro il degrado, che non si sa mai esattamente cosa sia e chi lo causa. Questa cosa qui sta polarizzando tutti gli odi, le insoddisfazioni di pezzi di quartiere, tra l'altro anche di pezzi immigrati di quartiere, perché c'è una moschea che partecipa alle manifestazioni, che non hanno un tema razzista o fascista, ovviamente, e ne hanno un altro, però è sempre quello del catalizzare l'insoddisfazione, le paure, la rabbia, eccetera, verso dei pezzi di città. Quindi, se vogliamo, l'elemento importante adesso è capire che forse non è il discorso antirazzista quello che può combattere queste cose qui, proprio perché adesso le nostre città sono così sfaccettate che non si può più creare la situazione come era per esempio negli anni 30, di caccia all'ebreo dappertutto. Si creerà una situazione di guerra civile per bande e a singhiozzo, in cui ogni quartiere avrà i suoi capi espiatori, che siano i rom da una parte, gli ubriaconi dall'altra, i tossici dall'altra, i nigeriani dall'altra parte, eccetera, eccetera, eccetera. Perché da una parte la composizione delle città, dall'altra parte i flussi migratori, dall'altra parte la logica stessa, no, delle cose, del sistema di dominio, porta a questo. E questa è una cosa per noi profondamente spiazzante. Oggi dei compagni sono andati alle gallette a fare quanti anni antirazzista. Probabilmente questa cosa qui, pur giusta, per carità, oltre a rischiare di essere, come dire, incomprensibile, perché io vi ricordo che nel quartiere dove è successo il problema stavano raccogliendo soldi per gli arrestati, cioè per quelli che sono stati arrestati per aver assaltato il campo e rischiando di mettere in pericolo la vita di bambini, donne e tutto il resto. fare un intervento di quel tipo con col tema classico antirazzista probabilmente porta a poco, perché chi vive nelle città di adesso, chi sia da sé, con italiani, con stranieri, io vivo in un quartiere che è abitato profondamente da gente che arriva da tutto il Mediterraneo perlomeno, e quindi c'è anche i problemi culturali, linguistici, ma anche con gli italiani il discorso nel senso verbale parlato conta sempre di meno, e ogni discorso in ambito apertamente antirazzista con gli italiani fa sempre l'effetto del voi difendete gli immigrati e noi abbiamo tanti altri problemi. Quello che dobbiamo fare assolutamente sono due cose: primo, trovare ogni spazio perché ci siano delle lotte che socialmente di fatto siano in comune, no, tra i pezzi di società che questa guerra civile latente vuole far scontare fra di loro. Non so, parlo di una delle iniziative che ci sono sempre girate sono presi di antistratto, e quando questi qui sono vissuti da italiani, marocchini e brasiliani assieme, come può succedere qua, questa è una possibilità di uscita da quella situazione di guerra civile, e per intendere una guerra civile in senso di classe, insomma, ovviamente, da una parte, e dall'altro lato capire chi sta organizzando adesso questo, chi sta soffiando sul fuoco da una parte e chi lo organizzerà praticamente, qual è il reticolo organizzativo. E la cosa che bisogna dire purtroppo che non sono i fascisti in quanto tale, no? Sono dei gruppi fascisti che hanno un radicamento sociale, una presenza talmente nulla che, per carità, facciamo di culo se riusciamo, ma che sono, non sono pericolosi, e altri gruppi che non si dicono fascisti e che sembrano molto più accettabili e fanno il discorso sulla sicurezza, invece sono molto molto molto più pericolosi. Nel caso delle Vallette si parla di base degli ultras e sicuramente di elementi di destra, è vero, però su altri pezzi della città di Torino che stanno incubando episodi potenzialmente come quelli, invece sono reti di comitati, società civile e tutto il resto. Per cui il nostro discorso antifascista deve essere il meno possibile un discorso sulla resistenza e tutto il resto, ma deve essere capire quanto un certo tipo di discorsi che siano etichettabili come fascisti o meno rischiano di essere il reticolo organizzativo che soffia sul fuoco della guerra tra poveri così frastagliata, così la vedo io a Torino, poi non so se altro è diverso. Ma infatti è proprio il discorso che mi senti, è proprio il discorso che cercavamo di fare in trasmissione qui insieme, appunto mettere in collegamento e mettere in luce i vari tipi di fascismo, da quello dei gruppi quindi diffuso sul territorio a quello che gli fa da sponda istituzionale e poi che ha una ripercussione sul fascismo individuale, quello per dire dei mezzi di trasporto. E con questo noi ti ringraziamo dell'apporto sempre molto interessante, grazie Andrea, e ci risentiamo e noi continuiamo con il filo diretto. Ok, ciao. Ciao, grazie, ciao a presto.